init for you. Init Fiora music for you. Contributi elettronici, rock ed indipendenti per una nuova esperienza di suono. Suono. Music for you, contenitore sonoro di sperimentazione musicale strutturato per l'amplificazione elettronica. Radio Sherwood 97-800, Radio Sandonà 102-2, il nosocomio di Music for you riapre i battenti ed io sono tornato in qua con la voce, vero Favotto, che sono meno sexy della scorsa volta? Sì, infatti ritorni a essere la solita puledra selvaggia, ma un po' meno piacente di come ti ricordavamo. Allora, noi non siamo in grado di pianificare e questo lo sapevamo, nonostante avessimo millantato grande pianificazione industriale preannunciando quello che sarebbe stata questa puntata. Esattamente, noi avevamo detto a chiunque che questa puntata avrebbe avuto un determinato contenuto e dobbiamo ricrederci. Siamo come, ben ricordi chi? Maxwell Sheffield intata Francesca. L'aereo precipita, Maxwell ritratta. Noi ritrattiamo, doveva esserci ospite, tra virgolette, Belly Drown Boy, un'intervista. Peccato, come si suol dire. Sì, se posso permettermi un 5 secondi di muro del pianto, è un mio pensiero, anche nostro se vuoi, va a Boogaloo Robert, cui siamo vicini per tutti i problemi che ha avuto con il suo Moon Club e speriamo che riapra più presto. Keep supporting Moon Club. Certamente. Eccolo qua, c'è una voce in più negli studi di Music for Youth. Ho fatto una citazione, comunque, certamente, chi lo sa. Certamente, ben tre voci in realtà, non ce n'è solo una. Una. E buonasera. Se ne aggiungeranno delle altre. E se ne aggiungeranno delle altre perché la puntata è densa, cioè siamo riusciti a sostituire più che degnamente, anzi. Diciamo che dall'aspirapolvere normale siamo passati a un folletto a questo punto. Quindi noi abbiamo Marco di Normal Eventi, che è una nostra vecchia conoscenza, se ormai si può dire. Decrepita conoscenza, direi. Sì, proprio imbalsamata conoscenza in stile Tutankhamon. Ma soprattutto chi presenzia questa sera? Mi sono portato dietro dei rinforzi perché chiaramente non mi fidavo di venire da solo come l'altra volta. E ho portato qua con me due collaboratori. Ve li presento subito. Uno è Davide. Ciao. E l'altro è Alberto dei The Souls, che è arrivato tutto affrettato. Perché? Buonasera a tutti, innanzitutto è un piacere di essere in questo studio di non registrazione. Non mentire. Sono di corsa, dato che ho appena terminato le registrazioni dei video col mio gruppo e il regista è appena tornato a Dublino e quindi è stato bello ed eccoci qua di nuovo a lavorare con voi. Perfetto. Grazie. Sono 50 euro comunque, sì, per questo sponsor dato a gratis questi minuti d'aria. Non te crede andare via così. Dopo, insomma, questi due collaboratori dopo vi spiegheremo, saprete perché sono qui. Non è che li ha portati qua perché non sa fare due piani di scale, sapete, cioè li ha portati qua con un senso. E non so fare comunque due piani di scale, cioè. Puntata ricca, mi ci fico, non fa rima, non importa. Comincia... Sì, perché era puntata ricca, mi ci. Comunque, Ryan Adams, Wish You Were Here. Wish You Were Here, si comincia bene, si comincia con un po' di rock and roll, perché è il titolo dell'album dal quale è estratta questa canzone. Poliedrico Ryan Adams, che manda fuori di tutto e di più da qualsiasi lato dell'universo. Fa voto non ridere sul manda fuori. No, ma ero ancora a puntata ricca io. Il ragazzo viene da Jacksonville, è nato nel 1974. Io non so che cosa consigliarvi di lui, perché ha una discografia sterminata. Potrebbe fermarsi comodamente a Gold del 2001, che è forse uno degli album migliori a lui prodotto insieme a 29 e Jacksonville City Nights. Io vi consiglio solo di non chiamarlo Brian, perché vi colpisce con oggetti contundenti e ciò è realmente successo ad un giornalista. Ossia, esiste il famoso Brian Adams di So Far So Good, cantante canadese neanche da poco. Ryan viene spesso scambiato per Brian. Ryan se la prende e colpisce fotografi. Andiamo a mettere questo pezzo, Wish You Were Here, estratto da Rock and Roll. Questo è Ryan Adams. Cotton candy and a rotten mouth. You know you're so fucked up. You know I couldn't help but have it for you. And everybody knows the way I walk and knows the way I talk. Rebecca knows the way I feel about you. It's all a bunch of shit, and there's nothing to do around here. It's totally fucked up. I'm totally fucked up. Wish you were here. Streets that only turn to boulevards and houses with backyards, and it's raining like hell on the cars. And everybody knows the way I walk, and knows the way I talk, knows the way I feel about you. It's all a bunch of shit, and there's nothing to do around here. It's totally fucked. Some drugs and smile. We'd smile. We'd smile. But not tonight, my dear. Ryan Adams, RSD 102.2 Radio Sherwood 97.800. Siamo rientrati, questa è Music for Youth e entriamo nel vivo della puntata. Perché Alvise Favotto? Perché noi, come detto prima, abbiamo degli ospiti e non li teniamo qui giusto per bellezza come quelle statuine che ti cambiano colore con il tempo, ma li usiamo per fargli delle domande. Quindi Marco, perché sei usateci qua tu questa sera? Sono qua per due motivi addirittura, quindi due validi motivi. Primo è per una serata al Revolver Club dell'11 dicembre, di cui a breve sapremo dettagli. Secondo, per una serata all'Unbound di Padova il 7 dicembre. Ma noi cosa facciamo? A breve sapremo dettagli. Ma noi cosa facciamo? Introduciamo, prendendo le cose alla lontana, la serata è l'11 dicembre con un pezzo degli Alice in Chains. Bravissimo, ti vedo preparato, Daniele, questa sera, a differenza di chi ti sei portato per fare le scale. Esatto. No, ma non essere timido, cioè prendi il microfono. Il microfono. Sì, vorrei dire che è la prima volta che vedo una radio dall'interno. Anche per noi, sì, è sempre un po' la prima volta. Cioè, non me la immaginavo così, mi immaginavo più transistor. Così schifosa, eh? Comunque ti dicevo, ma anche la radio è bella, sono i conduttori che calano la qualità globale. Sì, un picco alla rovescia. Comunque si parlava di Alice in Chains. E perché parliamo di Alice in Chains? Perché le sonorità di chi sentiremo tra poco, esatto, insomma, comunque derivano da quella, da quel filone americano. Alice in Chains, gruppo caro un po' a tutti, non solo i presenti ma penso anche agli ascoltatori, quindi prego. Vuoi che andiamo subito? Io volevo dire scena di Seattle, Soundgarden, tutte cose così, giusto per dare qualche notiziola, ma va bene. Io, ma tanto, parto lo con sanno un pezzo. Già, poi c'è Wikipedia. Cioè, da quando c'è Wikipedia? Esatto. Cioè, che cazzo servite voi? Praticamente no, giornissimo. No, ma io sono assolutamente d'accordo con te. Va bene, allora io limito la mia fonte note e vi dico che questo pezzo è estratto da una sorta di EP che però è finito pure al primo posto di popò di classifiche come quella americana e statunitense. È Jar of Flies, dal quale è estratta anche Nutshell, un pezzo a me molto molto caro. Noi però andiamo più su Radio Friendly e questa si chiama No Excuses. trade for warm sunshine. You, my friend, I will defend. And if we change, well, I love you anyway. Every day something hits me up so cold. If I need sitting by myself, no excuses that I know. In poco più di una settimana di Alcol e Solitudine, ed era il 25 gennaio 1994, e gli Alice in Chains partoriscono un parto veramente di quelli ancestrali, Jar of Flies, un bel vasetto di mosche. Sei contento, Favotto? Discretamente. Noto che sei riuscito a metterci dentro quelle due note di Wikipedia che non sbaglia mai. E a questo punto, dopo aver fatto melina prima della precedente canzone come l'Avellino all'84esimo quella volta che vince, andiamo a presentare la serata dell'11 dicembre di cui si stava parlando prima. Quindi Revolver Club San Donà di Piave, Club Arci, lo ricordo io, bravissimo, perché è sempre bravissimo. Bello. E chi ci suona? Ci suonano i Karma. Chi sono i Karma? Chi sono? Perché erano e adesso di nuovo sono. Davide, visto che... intervieni da Tergo. Allora, sì, perché... raccontaci qualcosa... Davide, limitamelo un attimo, esatto, per piacere. Cioè, io vento troppo invadente. Aggiungi del valore aggiunto a questa puntata. Allora, io posso dire che sono uno dei fan dei Karma, che non ha mai visto un concerto dei Karma. E complimenti. Perché... però te la perdoniamo. Allora, i Karma hanno fatto un paio di album nel giro di 3 anni, tra il 94 e il 96... 97. Non serve essere precisi qua, figurati. Ok. La precisione non fa parte di questo programma. E chi li ha conosciuti dopo, che si sono sciolti, che non hanno più suonato dal 96 in poi, non ha avuto la possibilità di vederli. Ma ricordiamo anche appunto che Karma all'epoca, perché ormai parliamo di più di 15 anni fa, non solo fecero due album, ma addirittura fecero parte di una scena partita, cioè che hanno fatto partire insieme ai Ritmo Tribale, se non sbaglio. Sì, After Hours. La Cruz, After Hours, tra l'altro, che hanno anche partecipato, se non sbaglio, con uno o due pezzi, Manuel Agnelli. Sì, c'è la voce, c'è la voce di Manuel Agnelli. Esatto, quindi, insomma, comunque loro all'epoca hanno detto, poi per varie vicissitudini, insomma, le cose non sempre vanno magari per il verso giusto, poi insomma, i gruppi, sappiamo bene i gruppi che problemi hanno ogni tanto al loro interno. Ah, e tra l'altro il buon Moretti, che è il frontman, poi ha dato vita al progetto Rezophonic, aperta e chiusa parentesi. Esattamente, è uno dei padri del progetto Rezophonic, quindi comunque sono rimasti nella scena. Se non sbaglio, il bassista, dopo che i Karma si sono sciolti, ha iniziato a suonare subito con gli After Hours. Cioè, perché accontentarsi di un duo terzario al Favotto? Non accontentiamoci, e infatti siamo in linea con chi? Con David Moretti, il cantante dei Karma. Ciao David. Ciao a tutti, ciao. Ciao, benvenuto. Grazie mille. Grazie per essere con noi e per dare una ventata di novità a questo programma. Il valore a questo programma. Altrimenti è da scrostarci con la carta vetrata. Grazie a voi. Ascolta David, allora noi volevamo intanto farti qualche domanda molto molto semplice, niente, nulla di impegnativo. E la domanda di rito classica di partenza, magari spiegaci velocemente come sono nati i Karma, insomma, visto che comunque volevamo sapere appunto qualche dettaglio in più insomma, dai protagonisti. Siamo presi indietro con le pratiche. Va bene. Vabbè, la storia penso che sia comune a quasi tutte le band, quella di trovarsi dal piacere di suonare insieme, di scoprire che insieme si può fare qualcosa. In quel periodo, diciamo, si aveva più la possibilità di sopravvivere con la musica, quindi noi abbiamo iniziato a fare un po' di cover band dei gruppi degli anni 70 e poi abbiamo fatto un lungo periodo di gavetta con i nostri pezzi finché l'incontro fantastico insieme ad altri gruppi della scena milanese, Casino Royale, Ritmo Tribale, La Cruz, After Hours, ci ha fatto in qualche modo far parte di un movimento così, che aveva la particolarità di collaborare, di darsi una mano, e quindi ognuno ha aiutato l'altro e siamo riusciti a fare i primi dischi insieme, e da lì è nato poi tutto. Certo, a crescere insieme, diciamo. Sì, sì, quello sì, cioè all'inizio la musica alternativa effettivamente non aveva nessuna chance di poter avere e poter gestire grandi produzioni, quindi abbiamo ognuno faceva un po' tutto, quindi siamo stati produttori dei nostri dischi, abbiamo sperimentato cose, tecniche di registrazione insieme, e avendo anche la fortuna di dividere lo stesso spazio che era lo studio Jungle Sound qua di Milano, diciamo le esperienze di ognuno poi diventava utile anche per gli altri. Certo, certo, arricchivano anche le altre band. E dopo sì, questo momento di memoria storica, di fronte alla vostra, al vostro ritornare sui palchi, sì, cosa ti pare che sia cambiato? Come vedi la scena attuale, insomma? Sì, da dentro e da fuori, diciamo. Beh, siamo cambiati noi fondamentalmente, anche perché ci siamo molto liberati anche di è stato una sorta anche di terapia, perché diciamo parte del gruppo non ha mai lasciato la musica, c'è anche da dire che noi mai ci siamo sciolti, però Andrea praticamente conclusa la nostra parentesi, è entrato in pianta stabile negli After Hours, già nel tour di Hai paura del buio e qualcosa anche del tour di Germi, Pacio il nostro percussionista è stato lungo il percussionista di Morgan. Cioè molti di noi hanno continuato a fare musica, diciamo appunto che non ci siamo mai sciolti, diciamo che abbiamo subito un grosso contraccolpo come all'inizio molti gruppi della nostra generazione, del passare di moda da parte delle major, di chi come noi era con una major di decidere di chiudere con la musica alternativa italiana, quindi siamo rimasti anche noi senza contratto, come i Marlene, gli After Hours stessi, eccetera, eccetera, però ci siamo trovati in un momento nel quale poi ritornare a trovare un contratto è stato veramente un'operazione impossibile, e quindi ognuno ha trovato poi altro da fare. Vi siete ibernati, diciamo, per qualche anno. Sì, sì, sì. Anche il cambiamento magari che vedi, diciamo anche magari come ascoltatore rispetto a quegli anni che avete vissuto voi, quindi comunque mi hai detto te, di cambiamento anche di contratto con Major, che insomma oggi come oggi, beh, allora e forse ancora di più oggi è il volere e il desiderio di qualsiasi band, certo, di tutta Italia, chiaramente. Cioè, che cambiamenti vedi, anche visto che appunto altri tuoi compagni hanno continuato a suonare, se non sbaglio anche tu appunto facevi parte, certo, del progetto Resofoni, quindi comunque in qualche modo sempre stati dentro nella scena, sì. Differenza rispetto a quegli anni, rispetto ad oggi? Ma penso che forse il bisogno di ascoltare musica non sia più una priorità rispetto a quello che era una volta, quindi per noi suonare ad esempio il venerdì a Leoncavallo significava avere la certezza di suonare minimo davanti a 3.000 persone, certo. Questa è diciamo uno scenario sostanzialmente impossibile adesso, cioè avere dei luoghi di aggregazione nei quali sia naturale sentire della musica, sia assolutamente naturale vedere dei gruppi sconosciuti. La cosa allucinante è che sembra cioè naturale invece entrare in un locale e non sentire nulla se non forse musica diffusa, quindi c'è un cambio proprio radicale che la musica mi sembra non essere più una grande priorità, diciamo. Questa ha fatto anche sì che ovviamente molto probabilmente le grandi major non siano più interessate, perché vedono che non c'è forse la possibilità di fare grandi numeri con la musica alternativa. Certo, e penso che questa sia una bestemmia totale, cioè nel senso che forse non si è neanche saputi anche sfruttare un momento, creare un'economia diciamo alternativa. In molti paesi in fondo non c'è stata questa crisi, cioè solo da noi c'è stato un po' anche un mollare da parte dei locali, insomma penso che ci sia la complicità in negativo un po' di tutti, anche dei gruppi, immagino. Ora io ti faccio una domandina barra discorsetto, che sono quelle classiche cose che dice che da vecchi che sono sti discorsi, no? Sostanzialmente. Ma tu non hai notato, e te lo chiedo perché, come ha detto bene Marco, l'hai vissuta da dentro, un abbassamento nella qualità delle band che costellano l'ambiente italiano, perché si è passati da una realtà come la vostra, After Hour, La Cruz, Marlene, tutti in contemporanea, anni 90, a, non faccio i nomi attuali, però ce li abbiamo ben presenti tutti quanti sostanzialmente, cioè basta andare a guardare la classifica di iTunes, che sì, può essere indicativo o meno, però anche quello che si ascolta in radio è sostanzialmente... I Dari, per dire. I Dari, cioè... Salutiamo, ma... i Dari, i nostri fidati ascoltatori, tra l'altro. No, un commentino veloce se me lo vuoi dare. Ma guarda, veloce, secondo me prima c'era una grandissima varietà di generi e non c'era la musica italiana che aveva un suo stile proprio musicale, no? Una sua estetica. Cioè noi suonavamo con gli Alma Megretta, abbiamo collaborato con miliardi di altri gruppi che facevano veramente tutt'altro. Avevamo un management fatto insieme ai Casino Royale e mai due gruppi più lontani da noi di Casino Royale, eppure abbiamo registrato molti dei nostri pezzi insieme a loro, delle cover, o noi suonavamo appunto pezzi loro, quindi c'era questa voglia anche di sperimentare tantissimo. Forse avere uniformato tutto quanto su uno stile ha creato sempre dei cloni, dei cloni, dei cloni, alla fine arriva a un prodotto molto molto annacquato. Non lo so, poi sinceramente effettivamente riuscire a capire e interpretare una scena nella quale siamo naturalmente e fortunatamente anagraficamente tagliati fuori, che penso che sia anche una cosa sana, cioè non riesco a essere molto obiettivo in questo. Certo, e allora visto che abbiamo parlato così male del presente, parlaci di qualche, di qualche vostro progetto futuro, visto che insomma si vocifera di una nuova uscita, o sbaglio? Sì. Noi in realtà avevamo già fatto un progetto in inglese indipendentemente da collaborazioni, ad esempio mie con Rexophonic, oppure in passato con Nocenzi del Banco del Mutuo Soccorso e con altri musicisti. Avevamo fatto uscire un disco nostro in inglese con il nome di Juan Mordecai. Nel senso, come dicevo prima, siamo molto più liberi di fare quel cavolo che ci pare, prenderci i tempi che vogliamo, decidere di tornare a fare un micro tour portando i pezzi dei Karma, oppure fare delle registrazioni, diciamo, che magari con i Karma non c'entrano assolutamente niente. Progetti futuri sicuri con i Karma e questo disco nuovo al quale stiamo lavorando, che poi conterrà anche tutte, poi come dire, la speranza di riuscire a trovare un accordo con la BMG per riuscire a stampare i due vecchi dischi e i provini del terzo disco che sarebbe dovuto uscire sempre con BMG, ma che ovviamente non uscì mai, e quindi sono tutti progetti, diciamo, che stiamo cercando di fare in qualche modo, di concretizzare velocissimamente. Certo. David, noi ti ringraziamo del tempo e di questo salto nel passato, questa porta nel passato che hai aperto. Ma anche nel presente, perché sabato suoniamo a Bolzano e poi dopo suoneremo a Sandorà di Piave. Bene, comunque bene, in giro noi ci siamo. Quindi buona fortuna intanto per la te Bolzano e ci vedremo a Sandorà. Okay. David, adesso mettiamo il cielo, ce la presenti tu. Un'angoscia che potevamo mettere, insomma. Esatto, dai. In questo momento mi sento un po' tipo i cugini di campagna, no? Però no, va bene. No, quindi, dai, no. No, è un pezzo ovviamente di noi. È un pezzo che forse è stato uno dei primi pezzi che ci ha unito e ci ha fatto in qualche modo decidere di iniziare a scrivere pezzi nostri e non fare solamente cover, quindi un pezzo al quale veramente devo moltissimo. Bene. Allora adesso ci ascoltiamo il cielo. Grazie David e ci vediamo quanto prima l'11 dicembre a San Donato di Piave, Revolver Club. Bravissimo, fantastico. Okay. Ci sentiamo. Buon David. Grazie a te. Ciao a tutti. Ciao. Music for Youth, Radio Sherwood 97 800, Radio San Donà 102.2. Questo è Il Cielo dei Karma. calma, stai karma, come diceva Zucchero e Alvise Favotto, è veramente felice che io abbia fatto questa battuta. Sì, perché voi dovete sapere che ci sono grandi e grandi viaggi tra me e Daniele Terzariol qui presente, in cui si parla unicamente di Zucchero e di quanto Laido sia questa persona. Laido in senso buono. Sì, ma il CD fa veramente schifo, quello nuovo, eh. Tra l'altro, che titolo è? Chocaback. Vogliamo parlare di questa cosa? Secondo me è un gesto onomatopeico che tu fai col braccio. Secondo me invece ha a che fare con dei fagiani, non so perché. Prego Marco, vuoi prendere la parola? Dobbiamo parlare di qualcosa di veramente serio, quindi se introduci, sì, okay, parlando di Zucchero e dell'ultimo album, si dice Chocaback. Allora, facciamo le cose serie. Il ragazzo qui ci tiene a essere introdotto con un certo stile. Ok, ci penso io. Facciamo che riazzeriamo tutto quanto. Faccio finta di rientrare. Vado, un secondo di pausa. Radio Sandonà 102-200, Radio Sherwood 97-800, di nuovo in studio Music for Youth e di nuovo in studio con Alvise Favotto, Daniele Terzariol, ma soprattutto Marco Normal e Venti, e io parto con una citazione per questa gran serata. Ovviamente, quando qualcuno si trova a palazzo per un'investitura, i servizi igienici sono sempre a sua disposizione. Stavano parlando di quella volta che i Beatles si sono fatti una canna prima di entrare a Buckingham Palace. Palla a voi. Bene, come questo ragazzo qui presente è riuscito a dire, noi stiamo per presentare una serata Beatles Oriente. Oriente, ma più che altro Lennon Oriente, vero Alberto? Qui presenta adesso dati da fare perché è arrivato il momento. Mi avete passato la palla in questo momento, quindi dovrò parlare tantissimo a quanto pare. Allora, stiamo parlando di una serata che avverrà a Padova il 7 dicembre, scusate. Ci siamo messi tutti d'accordo, il locale si chiama Unbound, perché okay, si parla anche di un Wund. Voi direte perché il 7 dicembre durante una settimana? Beh, il motivo è semplice, perché l'8 dicembre è festa innanzitutto, quindi si può stare fuori fino a tardi. Secondo motivo, 30 anni fa un certo Mark Chapman sparò a tale John Lennon ammazzato. E quindi noi abbiamo deciso di celebrare i 30 anni dalla sua morte con questa serata evento, assieme ad una tribute band dei Beatles che sono i Four Fabs di Verona, e assieme a due DJ che sono Alex De Luca e Nicky Navegosano. Certamente, i Four Fabs, cover band, tribute band, scusate, dei Beatles, che si esibiranno anche con dei pezzi Lennon solista, però questa volta, e anche un Alex De Luca, il più conosciuto per la sua background metal, no, il suo background in una veste electric, una veste comunque di una musica che lui ama parecchio, che è appunto Beatles, Lennon, insomma quel genere, e soprattutto il personaggio in questione. Quindi sarà una serata completamente dedicata a lui. Poi una cosa cui terrei dire è che questo non sarà un funerale, ma sarà una celebrazione dell'attività di John Lennon, nonché una celebrazione di quello che sarebbe stato se John Lennon non fosse stato ammazzato quel maledetto giorno. Grazie, due accrediti per Daniele Terzariol, Alvise Favotto, Alan Bound di Padova. Tra l'altro, Alvise Favotto, che quella sera compie gli anni. Tanti auguri. Grazie. Scese il silenzio. Motivo per cui la serata verrà rovinata. Esatto. Ma io festeggerò tra me e me in parcheggio, con una tristezza, sotto un lampione. È aperta anche la gara a lanciargli dei raudi in mezzo alle gambe, per cui esatto, accorrete. Sì. No, io free drink per chi vince. Per tutta la serata. Bene. Torniamo sui binari della normalità, per cortesia, ed è di nuovo interrogato Alberto, perché il pezzo che metteremo adesso è stato proposto da lui, che rimpiazza di botto Twist and Shout, che era quello che volevo mettere io, ma l'ospite ha sempre ragione, e Alberto, dici perché hai ragione. Diciamo innanzitutto che cerchiamo di cambiare un po' le abitudini, quindi basta Twist and Shout, basta Imagine, basta Help, cambiamo. Secondo motivo, qualche giorno fa ero a Londra, che camminavo per Covent Garden. Scusami, io ero in centro a Sandonà con gli occhi chiusi. Tanto che Covent Garden, per chi c'è stato, insomma, è pieno di artisti di strada che cantano, ballano, eccetera. C'era questo ragazzo che cantava e suonava la sua chitarra, al che quando gli sono passato a fianco, sarà per il mio taglio di capelli, sarà perché indossavo il parka, sarà perché indossavo le Clark, non lo so, ha capito che probabilmente avrei apprezzato un pezzo dei Beatles. Ah, pensavo Platinetto. No. Al che questo giovane ragazzo ha incominciato a suonare questa bellissima canzone, tra l'altro è una delle mie preferite dei Beatles, che è You've Got to Hide Your Love Away, e ho pensato di portarvi una versione di 5 anni fa realizzata dai The Subways, gruppo indie conosciuto da parecchi, penso. Soprattutto per Rock and Roll Queen. Esatto, sì, esatto, sono quelli di Rock and Roll Queen. E hanno fatto questa versione per un album realizzato dal mensile musicale inglese Q Magazine. Ed era per i 25 anni. Per i 25 anni della morte di John Lennon. Quindi sono passati 5 anni, tributo a John Lennon. You got to hide your love away. La mia sfida, come al solito, la lancio. Poi se vuoi raccattarla, bene, altrimenti ci penso io. Presentala tu questa canzone, fallo in italiano, fallo in inglese, visto che hai i titoli e le lauree per farlo. Decidi tu, sii molto professionale e radiofonico. Ok, ladies and gentlemen, this is the Subways with You've Got to Hide Your Love Away. Here I stand. Got to hide your love away. Questi erano i Subways, che hanno rifatto molto bene, perché ci sentiamo di apprezzare qui in redazione AMFY. Chi hanno rifatto, Favotto? I Beatles. Bravissimo, hai risposto giusto. Quattro parole ma ben dette. E hai vinto una pedata negli Zebedei prima di portartela a casa. Tripudio intestinale. Prima di portartela a casa, la tua mission sai benissimo qual è e non serve nemmeno che io te la ricordi. Gentile ascoltatore di Music for Youth, il Natale si avvicina, arrivano i panettoni, non ti piacciono i canditi. Ci chiami allo 0421 560993. Daniele Terzariolla, Alvise Favotto vengono con una coppetta, te li mettono da parte. Dopodiché un fax allo 0421 560994, ti mettiamo le uvette in disparte su un piattino e puoi tirarle ai tuoi parenti più piccoli, ad esempio cuginetti o cognatini o nipotini o qualsiasi cosa tu abbia. A questo punto una mail a radio@radiosandona.it e se vuoi ti spalmiamo la crema sul panettone. Inutile che ridi, ma la crema sul panettone. Anche sul pandoro ci sta bene. Eh sì. Se volete mandare le foto della vostra digestione, potete farlo a le lastre della vostra digestione. Esatto. www.musicforyouth.wordpress.com è il solito indirizzo blog dal quale scaricare questa puntata importantissima con un po' di ospiti. Soprattutto Marco Normal Eventi, che non finiremo mai di ringraziare e che a Capodanno vi canta YMCA. Che la vuole assolutamente sentire e ci tiene proprio. Noi poi tra l'altro abbiamo anche una pagina in Sherwood, andatevela a cercare, è nella directory principale delle trasmissioni settimanali che purtroppo ci mandano in onda. Poi cosa ancora? Abbiamo il blog musicforyouth.tumblr.com, anzi iscrivetevi al gruppo in Facebook e trovate tutto praticamente tra una cosa e l'altra, state molto svelti. Music for Youth, come si scrive Youth? Favoto? YOUTH per i non anglofoni. Anche il cantante degli Shins, ma soprattutto Danger Mouse, sono d'accordo che Youth si scrive YOUTH. Soprattutto perché loro lo insegnavano alle elementari. Ci stanno scrivendo sopra una canzone, intanto noi andiamo ad ascoltarci tra qualche secondino un estratto al loro primo album, anche perché si tratta dell'unico collaborazione vincente tra questi due bei ceffi che formano un gruppo che si chiama Le Campane Rotte e fanno una canzone che si chiama Vaporizza. Esatto, Vaporizza, tra l'altro se ben ricordi agli albori di questo programma insieme a Moby, Massive Attack, non mi ricordo chi altro, e Kasabian, tutti presenti nel nostro studio a giocare a tombola a 3-7 perché sei comunque con i Bagigi, avevamo presentato pure i Broken Bells, per sì. Cui momento di commozione, Alvise Favoto si è contento. Amarcord per noi, questi sono i Broken Bells e questa è Vaporize. Vaporize dei Broken Bells, siamo rientrati in Music for Youth, Radio Sherwood 97.8, Radio Sandona 102.2, giusto il tempo di far prendere il fiato a tutti i nostri ospiti che poi saranno ben pronti a ricapitolare tutto quello che è stato affrontato durante questa puntata e tutto quello che voi potreste sperimentare nelle date che Marco vi dirà tra poco. siamo rientrati, come si diceva, al sì, anche loro vaporizzano, nel senso che sono qui con dei grossi aerosol e la affrontano di per loro. Nel mentre noi vi ricordiamo che, anzi, andiamo a presentare la prossima canzone, chissà chi è sta gente, i Black Rebel Motorcycle Club. Ma soprattutto, perché li presentiamo? Perché li presentiamo? Perché come regalo di Natale, io e il buon Terzariolo abbiamo pensato, cosa regali a degli ascoltatori? Regaliamogli un'intervista, e quindi abbiamo realizzato questa cosa bellissima con i Black Rebel Motorcycle Club, che ora non hanno questa grande opinione di noi, non che prima la avessero. Abbiamo fatto questo gran prodottino che siamo felici di impacchettarvi e mandarvi direttamente nelle vostre case assieme al consueto fornetto. Allora, adesso il timido Terzariol mi guarda sornione e noi andiamo a mettere Shuffle Your Feet. È estratta dal loro album del 2005, il più countryeggiante, folkeggiante, chiamiamolo così. Sì, avevano tutti delle camicie in stile MacGyver e se la godevano. Come si diceva, Shuffle Your Feet, presa dall'album Howl. Questi sono i Black Rebel Motorcycle Club. Time won't save our souls. Time won't save our souls. Time won't save my soul, no. Things are going down. Nothing seems to feel the same. No one seems to know my name. No one seems to go my way. Well, who knows if I'll see you again? Well, who knows if I'll see you again? One more for the soulmate dreamers, one more for the wicked man, one more for the peaceful protest that keeps the war in demand. But who knows if I'll see you again? But who knows if I'll see you again? Shuffle Your Feet, questi erano i Black Rebel Motorcycle Club. Siamo arrivati in chiusura di puntata Music for Youth e ci sono un bel po' di cose da ricapitolare. E infatti io passerei subito la parola a Marco, che si è preso degli appuntini nel mentre stava vaporizzando e che ora ci ricorda tutto il ricordabile. Vi ricordo innanzitutto l'evento, sì, il concerto dei Karma Revolver Club l'11 dicembre, sabato 11 dicembre, quindi anche per gli amici di Padova, insomma è sabato sera, non dite che la domenica vi alzate presto perché non vi crediamo. Non fate i pensionati con tanto di pantofole. Vi ricordo anche che è un club Arci, quindi vi serve la tessera, ma la cosa bella è qual è? Che essendo di dicembre vi fanno già quella per l'anno successivo. Esattamente, per chi? Per quei tre al mondo che non ce l'avessero, sì, la tessera Arci. Sfigati. Chiaramente, no dai, non è vero. No dai, non è vero. Non ghettizziamoli, poveri cristi. Non è colpa loro. Chiaramente avranno la tessera anche 2011, quindi insomma l'investimento vale. Tessera, ricordiamo, per i migliori club d'Italia, tra cui il New Age, tra cui il Moon Club, il Banale. Il Banale. Banale, tra cui l'Unbound. L'Unbound, dove faremo appunto la serata dedicata a Lennon, vero Alberto? Ricordiamo, 7 dicembre, che non è un weekend, ma è il giorno prima dell'8. Per cui, di nuovo, non fate i pensionati, esatto, non vi crediamo. Esatto. Esattamente. La tessera è sempre 2011, quindi insomma... Sì. Le giustificazioni proprio sono poche, cioè, anche perché non potete mancare. Rimanere. L'Unbound è a Padova, cioè, per cui neanche i chilometri. Cioè, posso capire che si salti il revolver... No, ma anche no, no. Cioè, no. Però cioè, se proprio dobbiamo appenderci agli specchi, se si vuole sentire il rumore di unghie, non sta in piedi la cosa, sì, cioè, sì. Dai. Non avete nessuna giustificazione. Non cincionate, non raccontateci vaccate colossali, che già qua c'è già un programma che lo fa. Esatto. Non c'è spazio per nessun altro. Se si volesse trovare una qualche informazione in internet, cosa si farebbe? Oltre al ben noto social network, dove basta cercare Normal Eventi e c'è appunto il gruppo, eventualmente anche il blog di Music for Youth, che sicuramente siete linkati l'evento. No, ma siete anche linkati tra i nostri amici. No, ma pubblicizzerà l'evento, certo. Eventualmente c'è... ci vedo un minimo di coercizione, io sta cosa minimo qua. È un minimo. No, scherzi a parte, eventualmente c'è anche un nostro blog dove sono poche informazioni ma utili e ben fatte, insomma, che è normalpromotion.wordpress.com. Aspetta, ho guardato il vocabolario, si chiamano minacce stavolta, non coercizioni. Hai guardato Wikipedia? Sì, ovviamente. Ovviamente. Comunque, allora, si ricorda al Revolver Club l'11 e non si scappa, il 7 all'Unbound... Chi non viene vive un giorno in meno. Chiaro, ovvio. Favoto, vuoi aggiungere qualcosa? Ogni evento ti toglie 12 ore. 12 ore di vita. Andiamo invece a chiudere. È un mistero, ma è un... Andiamo a chiudere, perché volevamo anche chiudere in bellezza, ma vero? E come vuoi chiudere? Perché chiamiamo in causa di nuovo Alberto dei The Soul, che ringraziamo per la sua presenza. Vuoi salutare in a qualità casa? Qualità di esperto, perché... No, perché non penso mi stia ascoltando nessuno in questo momento a casa, quindi... Non va bene, perché devi farli ascoltare. Marco? Io volevo salutare tutti quelli che mi conoscono. Che è una cosa che va sempre detta. Che volevo dirla da anni e adesso, infatti, saluto tutti quelli che mi conoscono. Beh, hai scelto la vetrina peggiore per dirla, comunque sappilo. Sì, sicuramente, insomma, stimo quelli che mi conoscono, sicuramente stanno guardando questo programma, stanno ascoltando questo programma. Alberto, salvaci per cortesia. Sì, come prima, per non riascoltare le solite Imagine, Working Class Hero, eccetera, eccetera. Che qualcuno, varia. Qualcuno, Daniele o Alvise avevano anche proposto. Ma io non faccio nomi, pipì, pepe, qua. Fantastici, qua. Non si dicono molto. Noi ci ascoltiamo Instant Karma. Qui dentro siamo in tanti, quindi here we all shine on like the moon and the stars and the sun. Un citazionismo perfetto. Sembriamo a noi quando sbologniamo gli off-flag a Disco Pax in qualsiasi discorso. Sì, infatti, tra l'altro, io vorrei dire che questo è un finale circolare pascoliano. E qui io credo che scenda del silenzio. Io ringrazio ancora Marco. E Marco a sua volta ringrazia Davide, che a sua volta ringrazia e saluta, prego. Vi saluto e ringrazio Alberto, che a mia volta ringrazio e saluto Daniele. Io saluto Alvise Favotto, ma soprattutto Massimo Battistella, che dal nulla è qui in studio, si è palesato. E un saluto anche a Benedetto Ruggero. Sì, perché lui non manca mai. Benedetto, Marco, poi ti spiegheremo. Appena abbassiamo i microfoni, giusto il tempo per me di rimandare tutti quanti alla prossima settimana e a settembre. Questa è Music for Youth e questa è Instant Karma.